Dopo il grande successo del microfono che scotta e la sola dell'avvenire, finalmente in onda su queste frequenze. Sono una donna, non sono una santa, non tentarmi, non sono una santa. Non mi portare nel bosco di sera, ho paura nel bosco di sera. Parla per Con la partecipazione di Santa Milva d'Aceri e il premio Nobel di femminismo e pratica, io voglio praticare, Zarina. Sponsored by Big Mama Simona and Francesca. Autonarrazione. Parla per te. Esperienze. Parla per te. Racconti. Parla per te. Voci. E parla per te. Vita e miracoli. Parla per te. Lavori, sogni e bisogni. Parla per te. Impegni, impicci e capricci. Parola per te! Il precariato da noi, diciamo, è un precariato particolare, non è un precariato organizzato, non è un precariato che ha un contratto di lavoro diretto con l'amministrazione, e quindi questo in qualche modo ha pesato anche perché ha creato non solo disparità di trattamento, ma ha creato anche conflitti all'interno dei precari, perché molti di loro hanno contratti, diciamo, con enti diversi che in virtù appunto di convenzioni poi utilizzano queste persone all'interno del ministero per svolgere determinati compiti e attività che ovviamente esulano dall'oggetto della convenzione stessa, cioè, non, e che quindi questi enti, in alcuni casi anche pubblici, in realtà funzionano come delle agenzie interinali e ci sono dei costi enormi. E quindi il fatto che appunto questi colleghi precari poi abbiano dei contratti di 3 o 6 mesi, un anno, con enti più disparati e più diversi, ha fatto sì che rendesse loro difficile la possibilità anche di unirsi, anche se c'è stato qualche anno fa il tentativo di costituire una sorta di coordinamento. Che però ha avuto vita molto molto breve, che attualmente non esiste più. Io personalmente sono stata oggetto di mobbing anche, come dire, non solo trasversale ma anche diretto e personale e la mia risposta qual è stata? È stata non solo quella di impegnarmi a livello sindacale, però contemporaneamente anche di ridurre la mia presenza nel luogo di lavoro, nel senso che a un certo punto ho scelto di permanere in un rapporto di part-time, perché io avevo chiesto il part-time anni fa per potermi laureare, perché non riuscivo, cioè per stringere, per chiudere questa mia, per chiudere l'università ho dovuto fare questa scelta, e una volta poi conseguita la laurea ho via via aumentato le ore di lavoro, e fino ad arrivare comunque ad una sorta di part-time, cioè una sorta, ho chiesto un part-time orizzontale, quindi di 30 ore settimanali, e era soltanto una riduzione di 6 ore rispetto all'orario ordinario di lavoro. Però quando poi mi hanno sottratto il lavoro, non era la prima volta che questo succedeva, mi sono ritrovata dall'oggi al domani senza niente. La mia risposta, sicuramente la mia risposta di difesa anche, è stata appunto di rientrare in un part-time verticale, e quindi di concentrare le mie ore, la mia prestazione lavorativa in determinati giorni, ridurre anche la quantità di ore, e quindi avere del tempo a disposizione anche per fare altro, tempo che poi io ho utilizzato anche per fare attività sindacale, nel senso che poi a casa lavoravo in questo senso, oppure a volte mi capitava che, pur non essendo il mio giorno di lavoro, tornavo in ufficio perché c'era un'assemblea, c'era comunque un comitato, c'era qualcosa di importante da fare. Però ecco, diciamo che la mia risposta è stata così, sia diminuire e quindi starci meno possibile lì e recuperare anche altrove, e sia però anche impegnarmi, cioè non avere proprio un atteggiamento sconfitta, cioè questo no. E ho cercato di migliorare la mia attività di lavoro facendo anche sindacato, però ecco, non siamo riusciti ad ottenere quello che volevamo, perché purtroppo nei ministeri c'è un'antica tradizione, no, sindacale, fatta anche di appunto di siamo riuscite a scardinare certe mentalità, non ci siamo riuscite, è stato difficile anche, come dire, vincere delle battaglie, in alcuni casi siamo anche ricorsi a delle denunce che hanno portato degli effetti però temporanei. E questo soprattutto per quanto riguarda la sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi lavoravamo in situazioni molto disagiate, ammassate, abbiamo presentato quindi anche una denuncia, però sì, diciamo che l'amministrazione poi si è dovuta in qualche modo adeguare, ma si è trattato, diciamo, si è trattato di applicare male e temporaneamente alcune norme, non rimuovendo all'origine i problemi. Attualmente diciamo che le cose stanno un po' cambiando, ho riscontrato anche nei miei colleghi diciamo, la voglia di lottare alla luce dei vari decreti Brunetta che sono stati da tutti noi insomma, avvertiti come dei decreti molto ingiusti, forse non è la parola esatta, però che dipingevano diciamo, il lavoratore pubblico come un nulla facente, quindi un fannullone, qualcuno che sottraeva, rubava il pane, no, dei denti dei. E questo diciamolo è un qualcosa che ci ha offeso moltissimo, perché noi ci lavoriamo nei luoghi di lavoro pubblici e sappiamo come si lavora e possiamo a ragione dire che spesso se qualche cosa funziona è perché in quelle condizioni disparate noi riusciamo a farlo funzionare, non certi i nostri dirigenti, non certi i nostri direttori che non si preoccupano minimamente di organizzare un briciolo di lavoro. E, però sappiamo anche che appunto poi dietro queste parole tipo meritocrazia, efficacia, efficienza, tutte queste paroline magiche, no? con le quali loro cercano di creare un consenso per tacciarci di nulla facenza eccetera, in realtà ci sono altri provvedimenti liberticidi e poi perché l'intenzione di limitare il più possibile il diritto di sciopero, ci sono provvedimenti discriminatori, soprattutto per quanto riguarda la malattia, perché siccome reputano che noi siamo degli assenteisti, in realtà non ci ammaliamo ma fingiamo di ammalarci e quindi dobbiamo pagare molto perché per un giorno di malattia ci decurtano 20-25 euro al giorno, a partire dal prossimo anno, da gennaio del 2008 perderemo ben 100 euro e anche di più mensili e non solo, ma disporremo sempre di risorse sempre più limitate e non solo dal punto di vista appunto stipendiale o salariale, ma anche le risorse che poi vengono destinate alle amministrazioni per il loro funzionamento e per le loro attività istituzionali. Da noi si parla di una riduzione pari al 50-55%, quindi questo significa mettere un'amministrazione nelle condizioni di non poter operare in alcun modo. Que se descuide dele, o jeito a gente. questa situazione poi bisogna anche aggiungere un dato, cioè che da noi, come penso in qualsiasi altra amministrazione pubblica, i direttori, il personale dirigenziale, diciamo, è prevalentemente di genere maschile. Ser alegre que ser triste, alegria é a melhor coisa que existe, é assim como a luz no coração. Mas pra fazer um samba com beleza é preciso um bocado de tristeza, é preciso um bocado de tristeza, senão se faz um samba. Sono pochissime donne dirigenti, coloro che lo sono diventate lo sono non certo per meriti, ma per in virtù di lobby che le hanno sostenute, per cui la meritocrazia da noi non esiste, nonostante appunto tutti si riempiano la bocca di queste parole. Valutazione meritocrazia sembra che invece riguardi soltanto i dipendenti pubblici, ma i dirigenti, per i dirigenti e per la sia di prima fascia che di seconda fascia, sono altri i criteri con i quali vengono selezionati, e sono criteri prevalentemente politici, non certo legati al merito. Fazer samba não é contar piada, que faz samba assim não é de nada. O bom samba é uma forma de oração. E quelle poche donne dirigenti che ci sono spesso non è che si distinguono dai loro colleghi uomini, e forse in alcuni casi per delle modalità più urbane, no? Sicuramente più gentili, perché ci sono dirigenti da noi, alcuni che sono veramente misogini. Che sabe a tristeza, che balance a tristeza, tem sempre uma esperança, tristeza tem sempre uma esperança. De um dia não ser mais triste, não. Ci sono dirigenti che parlano appunto delle loro dipendenti utilizzando termini come sciacquette, e quando vedono comunque una persona di sesso femminile valida pensano che la sua capacità non sia una capacità derivante dalla sua anche intelligenza, professionalità, no, ma deriva appunto da, evidentemente da altri diciamo parametri che sono legati alle circonferenze. La mia vita è proprio è piccola, capiscimi. Thank you. c'è questo atteggiamento molto maschilista, abbiamo dirigenti generali che hanno ovviamente relazioni con segretarie, insomma è abbastanza diffuso, ecco, un malcostume è diffuso, ci sono dirigenti generali che si permettono battutine accattivanti pensando di essere molto simpatici, in realtà sono ridicoli e sono insopportabili, qualcuna risponde, altre no, la maggior parte ride e penso che questo sia un atteggiamento errato perché consente loro di andare avanti indisturbati, anzi si sentono in qualche modo spavereggiati. Quindi ci sono anche, ecco, forse un po' di comportamenti molesti, però non so fino a che punto siano recepite tali, questo è il problema.